cielo passar, sognar di mutar questa terra in un mar, vedere nell'acqua uno specchio di cielo, seguire le orme di un angelo solo, osservando le nuvole di un bianco svanir, mirar nell'immenso questo lento imbrunir, scrutando tra i solchi, cercando il consenso, d'abbracciar desiderio che tutto abbia un senso. Dillo a chi non sa ancora mentire, ali spiegate e non sai più pregare. Dillo a chi non grida all'amore, ogni piccolo giorno ne ricorda il dolore. Ogni piccolo giorno ne ricorda il dolore. Passando tra i rami e arbusti piegati, dal tempo segnati e nel tempo divisi, allegoria di vite di molti, occhi ciechi ingridano a ricordi ormai spenti, cogliendo il mistero del nome sull'acqua, da fredda pietra traspare speranza, guardando tra i solchi, cercando il consenso, d'abbracciar desiderio che tutto abbia un senso. Dillo a chi non sa ancora mentir, ali spiegate e non sai più pregare. Dillo a chi non grida l'amore, ogni piccolo giorno ne ricorda il dolore. Ogni piccolo giorno ne ricorda il dolore. Dillo a chi non sa ancora mentir, ali spiegate e non sai più pregare. Dillo a chi non grida l'amore, ogni piccolo giorno ne ricorda il dolore. Ogni piccolo giorno ne ricorda il dolore.